Oggi celebriamo la festa della Santissima Trinità, che assieme al mistero dell'incarnazione di Dio sono i due misteri principali della fede cristiana. Mistero vuol dire una verità non percepibile dalla ragione umana, un pochino sì, ma non spiegabile. Ed è come il Figlio di Dio si possa incarnare nel grembo di una ragazza e diventare uomo come noi e Dio, l'incarnazione del Figlio di Dio, e il mistero dell'unità e della Trinità di Dio, come Dio possa essere uno in tre persone uguali e distinte. Sono i due misteri principali della fede cristiana. E dunque io cercherò oggi, con l'aiuto tuo, o Spirito Santo, di dire qualche cosa di sensato al tuo popolo, per cercare di capire almeno qualcosina sulla tua vita trinitaria divina. Amen. Anzitutto farò due parole in generale e poi entrerò nel tema specifico. E le due parole in generale nascono dalla situazione, dal mondo nel quale viviamo, nel quale noi incontriamo sia il sacerdote, sia voi, nei vostri luoghi di lavoro, di incontro, tantissime persone che dicono di non credere in Dio. Non ci sono più gli atei, perché l'ateo è quello che afferma positivamente la non esistenza di Dio, ma occorre una bella fatica per dimostrare che Dio non esiste. Semplicemente oggi la gente dice: non mi interessa, io non ci credo. Dio, ma no, ma non è importante. E per il sacerdote che va a visitare le famiglie a portare la benedizione di Dio durante l'anno, è sempre, ormai abituato, ma è un po' sempre un colpo suonare il campanello, aprire la porta e dice: desidera? Ma sono il sacerdote, se vuole sono qui per la benedizione natalizia qui a Milano, o nel resto d'Italia per la benedizione pasquale. E ti senti dire tranquillamente, da gente molto giovane: non mi interessa, la ringrazio. E vai, non gli interessa Dio. Oppure tanti si fanno un'idea di Dio loro. Per esempio, diversi di voi mi hanno detto che in questa occasione del coronavirus, sui luoghi di lavoro o altrove, hanno trovato tanta gente che se la prendeva con Dio. Tu che vai in chiesa, il tuo Dio che cosa fa? Perché non si muove? Ma nella storia queste situazioni si ripetono, no? Dopo Auschwitz Dio non può esistere, capite? Cioè Dio esiste o non esiste a seconda che noi gli permettiamo di esistere o non esistere. Ecco dove è arrivata la prepotenza intellettuale dell'uomo, che è polvere e cenere. D'altra parte, anche nella storia ci sono state delle posizioni filosofiche di gente che ha detto: Dio non esiste, sono gli uomini che l'hanno creato a seconda dei loro bisogni, delle loro paure, si sono creati Dio. O uomo, io ti dico, prova a riflettere. E se fosse il contrario? Cioè che l'uomo ha il desiderio dell'infinito, ha il desiderio della ragionevolezza del mondo, ha il desiderio dell'amore, ha il desiderio di non morire, proprio perché Dio gliel'ha messo dentro. E se noi amassimo proprio perché, dice la Bibbia, l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio? Allora incontriamo tante persone. Io credo che noi, cari cristiani, se abbiamo il dono della fede, e guardate che è un dono, ci sono stati tanti personaggi, certamente siete tutta gente che legge, che si informa, e avrete incontrato diversi personaggi anche famosi che hanno detto: io non ho la fortuna di credere. Beato lei, io non ho questa fortuna. Ed erano persone di calibro, pensatori, filosofi, politici d'alto livello, giornalisti, scrittori, pensatori. Perché la fede veramente è un dono? Anche. Io preferisco chiamarlo, è un incontro. La fede è un incontro. Noi abbiamo avuto la fortuna di fare questo incontro, almeno me lo auguro anche per voi, e di aver incontrato, riderete come rido io, ma la vera religione. Don, tu dici così, qualsiasi altro di un'altra religione direbbe la stessa cosa. Certo, potrebbe dire la stessa cosa, ma se io confronto Gesù con gli altri fondatori di religione, devo constatare che nessuno, men che meno Maometto, si è dichiarato figlio di Dio. Nessuno. Ed è stato per questo che Gesù è stato messo in croce. Si è proclamato Dio. Hanno accusato gli ebrei di fronte ai romani. È reo di morte. E ancora il mio interlocutore può rispondermi: non sei un ingenuo. Anch'io posso dichiararmi figlio di Dio. È già, solo che dovresti dimostrarlo. Gli altri fondatori Gesù l'ha dimostrato. Come? Con la risurrezione, amici. Per questo la risurrezione di Gesù è il fondamento della nostra fede. Tant'è vero che Paolo scrive: se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede. E noi saremmo i più sciocchi degli uomini a credere in un uomo. Ma egli è veramente risorto. E da lì comincia la storia nostra, della nostra fede. Allora siamo arrivati a Gesù. Il fondamento della nostra fede, io ve lo ripeto da una vita, è Gesù. E la Trinità? La Trinità ce l'ha detta Gesù. L'umanità non si è mai sognata di inventarsi una religione trinitaria. Gesù ci ha parlato del Padre e ci ha parlato dello Spirito Santo. Io ho quasi finito la mia predica, perché non voglio addentrarmi a spiegare chi è il Padre, chi è Gesù, chi è lo Spirito Santo, perché questo dovrebbe essere l'argomento di tutte le messe, di tutte le nostre riflessioni. Io mi meraviglio solo di una cosa, cari cristiani, che fino adesso nessuno di voi mi ha detto: Don, non sareste disposto per favore a spiegarci privatamente, in un gruppetto, chi è il Padre, chi è Gesù, chi è lo Spirito Santo? Nessuno me l'ha ancora chiesto ed è veramente strano. O non credete profondamente in questa realtà, o siete superficiali, oppure siete indaffarati in mille cose e non avete tempo per questo. Quando una mamma mi dice: ho due figli o tre figli, non vado a messa perché non ho tempo. Signora, lei lavora? Eh sì, ma c'è tempo di lavorare? Anche se ha due o tre figli. Cari amici, dico questo perché l'esistenza di Dio Trinità è fondamentale per capire chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo. Per cui, se è penoso che tanti giovani non si interroghino su questo, se è penoso che tante persone mature non abbiano tempo, dicono, di interrogarsi sul senso della loro vita, secondo me è tragico che delle persone anziane non si interroghino sul senso della loro imminente fine. Perché di giovani ne muoiono tanti, ma di anziani non ne scampa nessuno, eh? Amici, lo dico anche per me, che anch'io sono in questa categoria. Ma ci pensiamo qual è il nostro destino? Che tristezza vedere gente di 75-80 anni che lavorano ancora come dei forsennati nella ditta, nell'orto, delle donne in casa loro che si disfano per i loro figli e non hanno tempo di fermarsi e dire: ma chi sto per andare a incontrare? Come sarebbe bello, amici, non mi illudo che me lo chiediate. Sono disincantato. Ma come sarebbe bello che ci dicesse: Don, aiutaci a capire chi è il Padre. E io vi leggerei solo il Vangelo, sapete. E Gesù chi è? È quello di cui mi sono innamorato, per cui sono diventato prete. Te ne saprei parlare bene. E lo Spirito Santo, che non l'ho mai capito, mi dice la gente, e non hai mai letto le Scritture attentamente. Cari amici, oggi è la festa della Santa Trinità, che ci conceda lo Spirito Santo, che è disceso nella Pentecoste e ha spalancato la mente dei discepoli, che ci conceda il desiderio, che è bellezza, di fissare il nostro sguardo nella vita di Dio, uno e trino.